giorno mi dicesti t'amerò tutta la vita, quel giorno mi giurasti eterna fedeltà, ma un giorno mi tradisti, non posso perdonarti, pur se il mio cuore soffre, mai più ti cercherò. L'hai voluto tu, eri la donna mia, l'hai voluto tu, perché fuggisti via. I nostri cuori non si incontreranno più, per sempre ti dirò, l'hai voluto tu. Credevo nel tuo amore, nel tuo cuore innamorato, ma i baci e le carezze tutto falsità. Negli anni che verranno ti cercherò sognando, ricorderò l'inganno e sempre ti dirò, l'hai voluto tu, eri la donna mia, l'hai voluto tu, perché fuggisti via. I nostri cuori non si incontreranno più, per sempre ti dirò, l'hai voluto tu. Incontreranno più, per sempre ti dirò, l'hai voluto tu, per sempre ti dirò.